stazione dice di salire al terzo piano. Io e tua madre ti aspettiamo, e forse è meglio se non sai che combiniamo. Siamo come quei gabbiani in mezzo al mare, così stupidi da urlare per la gioia di volare. State tutti in un angolo che poi vi chiamo. Rimanete in silenzio quando è il vostro momento. Aspettate il mio cenno e partiamo. Sono pochi che passano, per cui vi dico: concentratevi al massimo che dura poco. Se dovessero offendere potete anche piangere, tenendo presente che è un gioco. Bene, bene, benissimo, caricatevi al massimo. È un momento bellissimo e non dura che un attimo. Bene, bene, benissimo, vieni tu, che sei il prossimo, manca poco, pochissimo, andiamo. Cosa sto facendo? Quali anelli di gloria mi hanno spinto ad un simile processo? E soprattutto io chi sono adesso? E i miei sogni non valevano di più di qualche misero secondo. Sarò chi voi volete, sarò io invece con...